Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera, buonasera amici, vi giunga il mio saluto più affettuoso e così cominciamo la trasmissione. Stasera Antonio Ceccato per problemi familiari non c'è, ma speriamo di tirarla avanti bene, anche perché abbiamo un ospite graditissimo, un ospite che conosciamo già da diverso tempo, che è il dottor Cesare Barca, che fra poco vi presento. Intanto adesso cominciamo subito con la prima canzone, che sì, stasera come musica, da parte musicale, farò ascoltare delle canzoni di Gigliola Cinquetti, con la quale cominciamo e faccio sentire La Spagnola. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Stretti, stretti, nell'estasi d'amor. La spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte e il dì. Stretti, stretti, nell'estasi d'amor. La spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte. Amo con tutto l'ardore a chi è sincero con me. Degli anni miei il vigore gli può ben presto veder. Amo con tutto l'ardore a chi è sincero con me. Stretti, stretti, nell'estasi d'amor. La spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte e il dì. Stretti, stretti, nell'estasi d'amor. La spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte e il dì. Sguardi che mandan sette movenze di voluttà, le labbra son tumidette, poi il paradiso toccar. Sguardi che mandan sette movenze di voluttà, le labbra son tumidette, poi il paradiso toccar. Eccoci di nuovo in studio e saluto cordialmente il dottor Cesare Barca, che gentilmente ha accettato l'invito. Ciao Cesare. Buonasera, ciao. Come stai? Bene, molto bene. Ah, mi fa piacere. Allora, hai visto tutto in casa, anche la cantante ti ho scelto di casa tua. Sì, di casa mia. Di sì. Casa tua. Vero. Va bene, va bene. Allora, di cosa ci parlerai stasera? Ma io direi di parlare di Santa Lucia e quindi direi di soffermarci su questa figura di donna, di santa, perché non soltanto è la protettrice dei ciechi, è la protettrice degli elettricisti, è protettrice di tutti quelli che hanno a che fare con la luce, ma è anche una santa che è nota, è amata, è stimata, è così pregata anche per, un po' in tutta Italia, insomma, no? Se vuoi possiamo fare qualche cenno dal punto di vista... Se vuoi parlarne un momentino, sì. Allora, Santa Lucia, naturalmente considerata vergine e martire, è nata nel 283, se non ricordo male, il 13 dicembre, di questo sono sicuro. Ma allora noi festeggiamo la nascita? Sì, venerata nel 304. Nel 304 è morta, venerata da tutte le chiese, nel culto dei santi, logicamente, ed è la protettrice, come dicevo, dei ciechi, è patrona di Siracusa, protegge gli oculisti, gli elettricisti, ecco, vedi, sempre a che fare con la luce, e anche è protettrice per coloro che soffrono di malattie degli occhi in generale. Dicevo, è nata a Siracusa nel 283. Qualche anno fa, vero? Ma sì, qualche anno fa, è stato un po' di tempo, però Santa Lucia è rimasta sempre e viene continuamente evocata e ricordata. E arriveremo poi, magari se vuoi parliamo anche del perché Santa Lucia porta i giocattoli, perché i bambini l'attendono con tanta ansia, no? Ma proseguendo un attimino sulla sua figura, dobbiamo dire che appunto nata a Siracusa nel 283, morta nel 304, è una martire cristiana. Diciamo che è vissuta pochino, eh? È vissuta poco perché l'hanno ammazzata, è morta durante le persecuzioni sì, di Diocleziano. Sì. Ed è venerata non soltanto dalla Chiesa Cattolica, ma anche dalla Chiesa Ortodossa. Quindi viene considerata effettivamente santa a tutti gli effetti, un po' da tutti quelli che professano il cristianesimo. C'è un romanzo storico abbastanza interessante di un tale René Dumézil de Maricourt. È un romanzo in cui viene descritta proprio tutta la vita di Santa Lucia, una vita particolarmente interessante. La prima e fondamentale testimonianza sull'esistenza di Santa Lucia, perché c'è stato qualcuno che ne ha anche dubitato. Beh, come succede? E in effetti ne ha dubitato anche perché, avendo visitato a Siracusa la chiesetta a lei dedicata, direi quasi la principale di Siracusa, subito era stato notato che dovrebbe essere stata lì perché c'era appunto un qualche cosa nel pavimento che la ricordava, ma poi era stato coperto il tutto da calce, eccetera. Beh, no? Sì. Quindi c'è comunque una. Ma quello che più conta, diciamo, sono le descrizioni che vengono fatte. Lucia viene da un'iscrizione greca del giugno, mi pare, del 1894, che viene scoperta dal professor Orsi nella catacomba appunto di San Giovanni. Ma scusa, San Giovanni è la più importante come chiesa di Siracusa, dimmi pure. Ma dov'è sepolta lei? Ecco, Santa Lucia non è sepolta, il suo corpo è esposto, è possibile venerarlo nella chiesa di Santa Lucia in Venezia. Ah, l'hanno trasportata a Venezia? Certo. Ho capito. Aveva una mamma, anche Santa Lucia, e si chiamava Eutichia. E qui è importante ricordare questo discorso. Perché? Perché sua mamma si era ammalata di una malattia che le procurava una emorragia costante. E Santa Lucia, molto cristiana, molto cattolica, molto cristiana, allora non parliamo nemmeno del cattolicesimo, si era rivolta a Santa Agata, che appunto è la santa protettrice, no, della chiesa a Siracusa, e era andata proprio a pregarla insistentemente perché guarisse la mamma, e per andarci aveva fatto anche un lungo viaggio. che lei non era nata lì. Lei è apparsa a Sant'Agata e le ha detto: ma perché, chiedi a me quello che puoi fare tu. Ah. E naturalmente lei c'è un po' rimasta, un po' tanto, penso, no? E, però ha creduto a questo, allora ha pregato per la guarigione della mamma, è tornata a casa, la mamma era perfettamente guarita. Ma guarda. E da lì è nato anche il suo totale attaccamento, diciamo, alla cristianità, al Vangelo, eccetera. E ha confessato, e lì è stato il problema, ha confessato la sua appartenenza al cristianesimo, ecco, proprio dichiarato di essere cristiana. E siccome aveva un pretendente che mirava a lei, anche perché aveva abbastanza, era una famiglia abbastanza ricca, quella di Santa Lucia, e quindi pensando che si facesse facendosi cristiana, lui avrebbe potuto perdere le sostanze, perché allora vigeva ancora nell'ambito della cristianità la urgenza di donare ciò che si possedeva perché fosse distribuito fra tutti. C'era una condivisione tra delle ricchezze personali. E naturalmente, facendosi cristiana, lui andava a perderci, no? Perché ci avrebbe rimesso certo. E quindi si opponeva in tutte le maniere, non riuscendo ad ottenere la sua riconversione al paganesimo. E l'ha denunciata come cristiana. Ah, è così. E avendola denunciata, naturalmente è caduta in disgrazia e con le persecuzioni di Diocleziano nel 384. Anche lei è stata sacrificata. E tra l'altro hanno fatto molta fatica, perché hanno tentato di hanno tentato di farla fuori bruciandola, ma non si bruciava, perché prima rimaneva viva. L'hanno messa nel fuoco e è uscita indenne. Hanno cercato di ucciderla in un altro modo, adesso non mi ricordo più in quale altra forma, e anche lì la cosa non funzionava, no, non moriva assolutamente. Allora le hanno, pare che le abbiano tagliata la gola e poi anche tolti gli occhi, ma... E gli occhi adesso noi li vediamo sul piatto, però questo non è certa questa cosa. Non sappiamo se sia stata qualche cosa fatta dopo, no? Successivamente o così, questo genere. E per questo è diventata... Ed è morta, ma veramente ha fatto molta fatica, hanno fatto molta fatica ad ammazzarla, perché no, assolutamente non moriva, resisteva a qualsiasi forma, tranne naturalmente quando le hanno conficcato. Prima è stata martirizzata, eccetera, e poi è morta vergine, è stata considerata sempre la vergine protettrice delle malattie, perché ha guarito immediatamente sua madre. E certamente ci sarebbero anche altre testimonianze di guarigioni per coloro che sono rivolti alla sua protezione. Questo io non te lo so dire, perché non ho approfondito la materia, però decisamente è passata come la santa che protegge, come dicevo, tutti coloro che hanno bisogno di luce. Naturalmente chi ha bisogno di maggior luce sono coloro che non ce l'hanno, cioè i ciechi, oppure ecco, chi esercita l'attività di elettricista, chi si occupa di che ha a che fare con la luminosità. Comunque è la protettrice dei non vedenti, insomma, questa è... Certamente ecco, sì. Il discorso della protezione dei non vedenti è passato, è diventato per i non vedenti, diciamo, la festa più importante in cui festeggiare che cosa? Se la ricorda. Ecco, festeggiare Santa Lucia come protezione, sì, però viene intesa anche come questo momento viene inteso anche come il momento in cui bisogna avanzare quelle che sono le necessità, le istanze di chi ha problemi visivi. E viene fatto un pochino anche il assunto della situazione dei non vedenti. Specialmente degli anziani. Specialmente, direi, delle persone anziane, però noi dobbiamo ricordare benissimo anche il fatto che Santa Lucia viene venerata in generale, dicevo, non solo in Italia, tra l'altro, anche in Spagna. In Svezia so che è molto venerata, molto... In Grecia. In Svezia. Sì, ma direi un po' in tutta Europa, sai, viene considerata sì. con modalità diverse, in forme diverse, ma è diventata, insomma, ormai la santa un po' di tutti in questo senso. E io so che a te Santa Lucia ha portato un sacco di cose ieri, ma insomma, beato te. Ma ecco, adesso il discorso è questo, no? Lucia porta i doni, Santa Lucia che porta i doni e li porta di notte quando la gente... Sì, appunto, con l'asinello. Sì, ma ci sono varie modalità per godere della festa di Santa Lucia. In Sicilia viene vista in un modo, nel Friuli in un altro, nel Trentino forse un altro ancora... in Lombardia non viene festeggiata. No, è vero, perché a Cremona e a Mantova... Sì, ma a Milano no, per esempio. No, a Milano no, però... Però a Mantova Brescia, sì, a Cremona anche. Anche vero. A Brescia, sì, in certe città viene molto molto festeggiata. Beh, noi a Mantova la festeggiamo tantissimo, proprio è una cosa sacra il giorno di Santa Lucia. Però in determinati casi, e questo è una cosa che... è interessante da notare, noi abbiamo un pochino, come posso dire, sfatato il concetto di Santa Lucia dal punto di vista del fondamento reale della santa, no? La quale non fa altro che aiutare, non fa altro che fare bene, che pregare il Dio per noi e intercedere per la nostra, come aiuto fondamentale per noi. In realtà poi dal punto di vista della popolazione in generale, Santa Lucia viene utilizzata, strumentalizzata come colei che, se fai il bravo, ti porta qualcosa. Eh beh, sì. Se invece non fai il bravo... Non ti porta niente. Ma addirittura ti castiga. Ti castiga. Ti porta la sabbia negli occhi, sì. Oppure il carbone. Sono quelle cose. Correndo, no? Cioè ti punisce. Vista Santa Lucia è vista come colei che premia e colei che punisce. Che punisce. Quindi, e questo in senso viene è stata sfalsato. Oh, ma generalmente Santa Lucia porta i regali. No. A volte porta anche il carbone. Sì, quando uno si comporta male viene sfalsato Santa Lucia e diventa colei che porta la punizione, il castigo. Vabbè, qui è uno sfalsare Santa Lucia adattandolo a quelle che sono le nostre esigenze, le esigenze delle mamme o dei papà che giudicano i loro figli e nel giudicare dal punto di vista educativo i loro figli dicono no, a te Santa Lucia non può portare nulla perché, oppure ti ha portato poco, sì perché sei stato un po' cattivello, oppure, se no ti avrebbe portato anche, ecco questo direi che è un pochino così limitare l'immagine, la figura storica e anche dal punto di vista della santità e della bontà enorme di Santa Lucia, perché naturalmente ha sacrificato se stessa fino in fondo e quindi è venerata anche come vergine e martire, no? Ascolta Cesare, adesso noi ci ascoltiamo una canzone, poi ci parlerai, tu ti interessi molto degli anziani, e ci parlerai della sala virtuale, perché la sala virtuale ha preparato per i nostri ascoltatori la Notte Santa. La Notte Santa a 14 voci. Ah, quella poesia di Guido Gozzano. Di Guido Gozzano. E così è un regalo che facciamo per Natale. Certo, è molto molto bello. Ecco, allora adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo da te, va bene? Ok. Allora ci ascoltiamo Quando me innamoro, sempre da Giglio Recinto. So trovare un fiore e che non ho mai niente da regalare. Dicono che c'è un chiodo. nuovo in studio con il nostro dottor Cesare Barca. Allora Cesare, tu hai parlato di Santa Lucia, la protettrice dei non vedenti, tu però ti occupi in particolar modo degli anziani non vedenti, no? Soprattutto, sì. E hai istituito anche una sala. Sì, è nata 6 anni fa, finalmente siamo riusciti a mettere in piedi una sala virtuale telefonica che abbiamo chiamato in modo molto significativo Parla, un amico ti ascolta. Si tratta di trovare qualche possibilità per lottare contro l'isolamento, contro la solitudine, contro la disinformazione delle persone anziane che perdono la vista. E per anziani intendo comunque coloro che dai 60 ai 65 in poi, insomma. Ma naturalmente la sala è aperta a tutti, è un po' come un bar, come il punto d'incontro delle persone avanti negli anni che però sono felici di accogliere i loro figli, i loro nipoti e via discorrendo. Quindi la sala è un punto di ritrovo, un punto d'incontro e probabilmente non sono note a tutto il pubblico queste possibilità dal punto di vista della telefonia. Si tratta del sistema TalkU, cioè è un sistema che viene dalla Germania, è stato introdotto comunque anche in Italia molto ampiamente, ne fanno uso i politici, ne fanno uso le 5 Stelle, senz'altro, per fare riunioni online, cioè ci si trova insomma personalmente, ma utilizzando i telefoni. Questo naturalmente fa risparmiare tempo, fa risparmiare viaggi e quindi spese, e dà la possibilità, senza vedersi in faccia, però sentendosi bene, oppure collegandosi anche direttamente grazie al computer in Skype, allora c'è la possibilità anche proprio di vedersi, di fare conferenza. Un incontro, sì, come fosse una conferenza, sì. Insomma, no, online. E ci si sta in quanti in questa sala? È un numero infinito. Perché logicamente è un discorso che viaggia attraverso l'informatica, quindi voi sapete quante cose si possono stare all'interno di un programma informatico. Ecco, un numero infinito, no? Quindi possono entrare tutti. Naturalmente devono possedere il numero, devono possedere il codice, il codice segreto, che naturalmente il PIN, insomma, è particolare, perché rende così protetta, diciamo, la sala da invasioni inutili da parte di terzi, e diventano dei punti di incontro molto importanti. Ora, erano già in funzione quando noi l'abbiamo messa in atto, era già in funzione in Italia e appunto veniva adoperata, come dicevo prima, soprattutto per dai le conferenze, partiti, da conferenze da parte di finanziatori, via discorrendo, cioè di gente che si occupano di commerciale, eccetera, eccetera, no? Veniva adoperata anche dai tribunali e via discorrendo, però non veniva mai adoperata per cercare di sopperire all'urgenza di eliminare o perlomeno di diminuire la solitudine. Ecco perché è nata questa sala, l'ho voluta, l'ho pensata, l'ho desiderata per molto tempo, finalmente quando ho avuto la possibilità di conoscerla e di conoscere la sua possibilità di applicazione, ho spinto finché anche qui a Verona è nata questa sala, ma poteva nascere in qualsiasi città d'Italia, con un numero proprio e con la finalità proprio di vincere la solitudine, per cui noi abbiamo 14, anzi 15, quanti siete? Siamo in 12 moderatori. Di cui fa parte anche Gesuina, la nostra conduttrice, e dedicano un'ora, 2 ore alla settimana del loro tempo proprio per ricevere queste telefonate che se si ha un contratto flat, cioè un contratto completamente libero, no, come normalmente ormai si ha dappertutto, per cui si può telefonare in qualsiasi città d'Italia a costo fisso senza dover pagare a parte, come accadeva una volta, la sala virtuale in pratica ha costo zero. Allora Cesare, una nostra amica... Cioè la telefonata a costo zero, poi la sala virtuale per metterla in atto qualcosa costa, insomma, perché viene dalla Germania, non è che la Germania ti regala tutto, ecco. Ti stavo dicendo. Può fare decisamente molto meno che non fare viaggi per incontrarsi. Certo, certo. E poi si guadagna il tempo. Ti stavo dicendo che una nostra amica ha avuto un'idea fantastica, quella di far recitare La Notte Santa, ha fatto la regista in sostanza, in 14 persone che si recita La Notte Santa. È una cosa secondo me molto bella. Sì, e l'ho pubblicata anche sulla rivista che ho dirigere ormai da più di 20 anni, che si chiama Senior, è una rivista che viene distribuita a livello nazionale a tutti coloro che la desiderano, e sono parecchi, e che occupa circa 6 ore di trasmissione. All'interno di una rubrica che si intitola A Cuore Aperto, Maria, bravissima Maria D'Esposito. Di Napoli, sì. Di Napoli, che lavora con me come corrispondente da molti anni, pur essendo ancora molto giovane, e ha voluto inserire questa performance che lei è riuscita a costruire grazie all'abnegazione, l'attenzione, la curiosità anche, e comunque da parte di quanti sono? 14. 14, sì. Maria mi pare che la presenti anche, quindi se magari ascoltiamo Maria ci spiega esattamente come si... È Maria D'Esposito di Napoli. Maria? Ciao a te e a tutti i radioascoltatori, all'equipe. Ciao Maria, qui abbiamo anche Cesare in linea. Sì. Ciao Cesare. Benvenuta. Grazie, grazie. Come ti è venuta l'idea di fare questa poesia con tutte queste persone, con tutte queste belle voci? Bene, questa idea mi è venuta, anche se potrebbe sembrare infantile, mi è venuta perché il Natale dovrebbe richiamare lo spirito di aggregazione, l'unione che ci deve essere tra tutti. E quale modo migliore se non quello di riunire tante persone per una recita? Peraltro anche il sentirsi un po' bambini porta appunto a rivedere, a richiamare lo spirito natalizio e a provare quelle gioie che forse dimentichiamo un pochino. La poesia di Guido Gozzano, La Notte Santa, si prestava moltissimo per essere recitata da più persone. Ci abbiamo provato in situazioni che forse erano abbastanza particolari, perché l'abbiamo provata in una sala virtuale praticamente si tratta di un numero al quale abbiamo già spiegato la sala virtuale telefonica. E lì quello è stato il nostro teatro virtuale. Abbiamo fatto delle prove e abbiamo realizzato questa recita con grande entusiasmo di tutti gli attori, ma soprattutto mio, per la soddisfazione di essere stati insieme. Bene, bene Maria. Perché sono tutte persone, vero Maria? Tutte persone raccolte da varie città, da vari paesi, eccetera, che si conoscevano tra di loro proprio grazie alla sala virtuale telefonica. Appunto, appunto. Ed è stato un lavoro improbo il tuo, è veramente, direi, dal punto di vista della realizzazione, estremamente bello, importante e faticoso. Credo non sia stato facile armonizzare il tutto e sistemare il tutto. No, faticoso no, semmai solo ai fini organizzativi, ecco, impegnativo, solo al fine organizzativo, ma ogni sera, ogni prova che si faceva, si faceva il passettino avanti e quindi ci spronava a continuare e a chiudere, a costruire il tutto. Bene Maria, noi ti ringraziamo. Un saluto da Sorrento. Ecco, appunto, ciao Maria. Ciao a tutti i radioascoltatori. Grazie, ciao, grazie. Ciao Maria, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, ci ascoltiamo la poesia. Siamo giunti, ecco Betlemme, ornata di trofei. Presso quell'osteria potremmo riposare, che troppo stanco sono e troppo stanca sei. Il campanile scocca lentamente le sei. Avete un po' di posto, o voi del caval grigio? Un po' di posto per me e per Giuseppe. Signori, ce ne duole, è notte di prodigio. Son troppi i forestieri, le stanze o piene zeppe. Il campanile scocca lentamente le sette. Oste del Moro, avete un rifugio per noi? Mia moglie più non regge ed io son così rotto. L'albergo ho tutto pieno, sul palchi e ballatoi. Provate al Cervo Bianco, all'osteria più sotto. Il campanile scocca lentamente le otto. O voi del Cervo Bianco, un sottoscala almeno avete per dormire? Non ci mandate altrove. S'attende la cometa, tutto l'albergo pieno di astronomi, di dotti, qui giunti da ogni dove. Il campanile scocca lentamente le nove. Ostessa dei tre belli, pietà d'una sorella, sapete in quale stato e quanta strada feci. Ma fin sui tetti o gente, attendono la stella, son negromanti, magi persiani, egizi e greci. Il campanile scocca lentamente le dieci. Oste di Cesarea. Un vecchio falegname, albergarlo, sua moglie, albergarli per niente. L'albergo è tutto pieno di cavalieri e dame. Non amo la miscela tra l'alta e bassa gente. Il campanile scocca le undici lentamente. La neve. Ecco una stalla. Avrà posto per due? Che freddo. Siamo a sosta. Ma quanta neve, quanta. Un po' ci riscalderanno quell'asino e quel bue? Già Maria trascolora, divinamente affranta, e il campanile scocca la mezzanotte santa. È nato, alleluia, alleluia, è nato sovrano bambino, la notte che già fu si buia risplende d'un astro divino. Or su cornamuse, più gaie suonate, squillate campane, venite pastori e massaie, o genti vicine e lontane. Non sete, non molli tappeti, ma come nei libri hanno detto da 4000 anni profeti, un poco di paglia per letto. Da 4000 anni s'attese quest'ora su tutte le ore. È nato il Signore, è nato nel nostro paese. Risplende d'un astro divino la notte che già fosse buia. È nato il sovrano bambino, è nato, alleluia, alleluia. Buon Natale a tutti! Ti è piaciuta, Cesare? È estremamente interessante, ed è per quello, dicevo, che ho avuto il piacere di poterla diffondere a livello nazionale. Scusa, Cesare, allora ci ascoltiamo una canzone. Oramai non dormo più, quando è notte vado camminando. Da quando c'è lui, io mi chiedo se son viva oppure sto sognando, sognando, sognando di lui. Nel silenzio della notte una voce mi dirà: l'amore è un romantico blues, un blues che fa morire il mio cuore. Di giorno lo voglio scordare, di notte penso a lui. Che fa morire il mio cuore. Io l'amo ogni giorno di più, perché oramai non dormo più. Tu mi dici che verrà, che mi amerà, ma quando tu lo vedi solo tu, con gli occhi tuoi soltanto, ma non sai nemmeno tu. Eccoci di nuovo in studio, Cesare. Dicevo, è bellissima l'attività e l'impegno che ha messo Maria per poter costruire questa recita, in cui si avverte la, come posso dire, la mancanza, no, di impostazione teatrale delle persone, perché sono persone che non hanno mai fatto teatro, non hanno mai recitato, forse durante le loro scuole elementari, ma niente di più. E quindi ha dovuto impostare un po' tutto, e non soltanto imparare a memoria le loro brevi parti di recitazione, ma anche impostare dal punto di vista vocale tutto quanto insieme. Però è riuscita una bella cosa. Sì, direi che a questo ha contribuito anche quando la fatica maggiore era già stata compiuta da Maria nell'armonizzare il tutto, la bella diciamo riduzione che ne ha fatto Alberto Stagni. Ecco, anche questo è servito moltissimo per fare in modo che la cosa risulti gradevole il più possibile e corretta, insomma. Insomma, abbiamo fatto qualcosa di buono, no? Noi facciamo, tentiamo di fare qualcosa di buono. Tu farei molte più cose buone delle mie, io non lo so, non giudico, ecco, e non faccio la gara. Però certamente cerchiamo di eliminare il più possibile, o perlomeno di sostenere questa possibilità che purtroppo sta diventando un problema a livello sociale di carattere generale. E cioè la tecnologia, l'informatica ci aiuta, per carità, ci aiuta moltissimo, però isola perché le persone non hanno più la piazza dove trovarsi, non hanno più i giardini dove incontrarsi. Se escono con l'iPhone, escono con lo smartphone per poter parlare continuamente, ti passano accanto e stanno parlando con altri. A me è capitato ancora di dire: ma stai dicendo a me? Dice: no, sto telefonando. In effetti è via che va, insomma, no? Quindi è una forma di isolamento che rimane molto molto spesso con una durata, una costanza durante il giorno, particolarmente per i giovani, ma non solo loro. Anche gli anziani li vediamo girare con lo smartphone, anche i nostri rifugiati, no? Quelli che vengono coi barconi, poi appena arrivano, se possono, viaggiano col loro smartphone e magari si lamentano pure perché non hanno sufficiente wireless, insomma, no? Quindi possibilità di poterlo utilizzare liberamente. Diciamo che la tecnologia sta diventando padrona di noi stessi, se noi non riusciamo veramente a utilizzarla in maniera più corretta e fare in modo che quello che è il senso della comunità, cioè dello stare insieme, del poter vedersi, parlarsi, eccetera, se questo senso, questo bisogno non diventa ancora emergente, finiremo per trovarci veramente in situazioni molto, ma molto tristi. Sì, però adesso i nostri anziani sono con questa tecnologia, un po' anche con tutto quello che si fa anche noi come associazioni, sono meno isolati di una volta. Meno isolati nel senso che si possono rapportare meglio con altri. Questo certamente sì, chi sa adoperare il computer si rapporta in qualche maniera. E direi che dal punto di vista dell'incontro telefonico la cosa è ancora più completa, più importante, perché se non altro ci si sente dal punto di vista della voce, mentre attraverso il computer al massimo si scrive oppure si partecipa a Facebook e con il like e via discorrendo, mi piace, sì, mi piace di più, mi piace meno e via discorrendo, che dimostra semplicemente la partecipazione, sì. Niente di più. E questo serve, direi, fino a un certo punto, perché molto spesso poi crea delle difficoltà dal punto di vista proprio relazionale. Eh beh, certo, perché... In questo senso dobbiamo un attimino correggere il tiro, non lasciarci sopraffare da quella che è importantissima dal punto di vista tecnologico, eccetera, eccetera, ma non è la modalità migliore per creare una forma di socializzazione. Ma sai, persone che non possono muoversi, che non hanno possibilità di andare, penso che sia una delle cose più belle, perché altrimenti sarebbero proprio isolate. Sì, ma deve servire anche per fare in maniera che proprio perché si conoscono attraverso l'informatica, sono persone che vengono lì, sono nostri amici, insomma, ormai, no? Perché queste sale virtuali appunto servono per creare amicizia. Perché abbiamo pensato di creare amicizia? Adesso qui non voglio farla lunga, però qualcosa voglio dire, perché effettivamente la situazione della disabilità visiva, cioè della cecità o quasi dell'ipovisione, se non è cecità assoluta, delle persone anziane è sempre in continuo aumento. Anzi, si è dedicato quest'anno la giornata del cieco, è stata dedicata soprattutto alla retinopatia diabetica. Io ho intervistato il professor Spinelli, primario dell'Università di Milano, che mi ha confermato purtroppo che la retinopatia diabetica è estremamente diffusa ed è in continuo aumento, non è che diminuisca, perché il diabete è diventato una malattia ormai che non so se c'è, non tutti, ma è diffusissima. Purtroppo sì, magari no, ma io ne so qualcosa, i miei genitori. Sì, ecco, sì. Quindi probabilmente noi non abbiamo e non riusciamo ad avere a vivere con una alimentazione decisamente appropriata, no? Si parla, per carità, di prendere i prodotti vicini, si parla di tante cose, ma sinceramente, insomma, la situazione del diabete sta diventando veramente tremenda per quanto riguarda la malattia della retina, che, come sapete, è quella parte determinante che produce le vibrazioni utili e indispensabili per trasmettere le onde elettriche, naturalmente, quindi gli impulsi che riceve l'occhio attraverso la cornea, lo trasmette alla retina e la retina a sua volta le trasmette al nervo ottico e quindi c'è la visione. Però se la retina, questa pellicola, tanto per capirci, non viene impressionata perché si spacca, perché si opacizza, e allora la visione cala sempre più fino ad arrivare alla cecità. Allora adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo da te. Sì. svegliarsi una mattina al centro della vita, ma con qualcosa dentro che non se ne va. Trovarsi in mezzo a situazioni senza uscita e riscoprire a un tratto la semplicità. Chiamalo amore, chiamalo amore, ti risponderà. Far pace coi ricordi per ricominciare e non lasciarsi dietro mezze verità. Tu chiamalo amore, chiamalo amore, e amore sarà. Chiamalo amore, senza più paura alla realtà. Parlarsi tanto fino ad arrivare al cuore, sapendo quanto costa la sincerità. Chiamalo amore, chiamalo di nuovo in studio. Senti Cesare, visto che siamo ormai arrivati agli ultimi minuti, vuoi così illustrare cosa intendi in futuro proporre nella sala virtuale? Sì, volentieri, brevemente, perché ormai l'ora è tarda, penso che abbiamo ancora poco tempo. È la sera, si avvicina alla notte, e la notte di Santa Lucia. Probabilmente anche i bambini o le mamme hanno dormito forse un po' meno, perché perlomeno quando io ero piccolo ricordo che mi alzavo di notte per andare a vedere se era arrivata Santa Lucia, pur correndo il pericolo di ricevere la sabbia negli occhi, perché allora si diceva anche così. No, io non l'ho mai sentito. Non ti devi alzare perché altrimenti Santa Lucia ti butta la sabbia negli occhi. Oh, mamma mia. E facevano per garantirsi la sorpresa, no? Certo, certo. Io credo, spero, mi auguro che anche questa notte ci siano delle sorprese un po' in tutte le case di coloro che ci ascoltano e anche di quelli che magari non possono ascoltarci. Sorprese di gioia, sorprese d'amore, sorprese di ritrovare la capacità di rivitalizzarsi, perché in fondo Santa Lucia ci esprime anche questo, un po' in certo senso introduce il concetto di Natale. Santa Lucia rappresenta colei che non si riesce a far morire e vive in eterno, chiaramente, vive in eterno. E per parlare della, dicevi della sala virtuale. Sì, quello che intendi proporre. Ma la sala virtuale, sai, come tu la conosci bene, perché sei sempre stata anche tu un'attiva moderatrice, ha lo scopo sì di riunire tutti coloro che vogliono venire così a trovarsi, come fossero in un giardino, come fossero al parco, come fossero in un bar di particolare accoglienza, però rappresenta anche la possibilità, offre la possibilità anche di avere dei momenti di incontro con persone, con conferenzieri, con persone che ti spiegano determinate circostanze, determinate situazioni. Tu stessa hai avuto la bontà così di far venire qualcuno di particolare professionalità, che ci ha parlato di Venezia, del commercio, del sale di Venezia, via discorrendo, ci ha parlato dell'ebraismo, cioè sono momenti, ma non solo, ci sono medici che abbiamo fatto intervenire ripetutamente. Uno degli ultimi è il dottor Claudio Pagliara, oncologo, estremamente valido, ha scritto un bel libro dal titolo La via della guarigione, che è un libro piuttosto intenso, piuttosto ricco di notizie e di modalità per poter guarire, partendo dal presupposto che la malattia, qualunque essa sia, non va curata esclusivamente dal punto di vista farmaceutico, fine a se stesso e basta, ma il soggetto deve essere considerato nella sua globalità. Cioè lui sostiene, e io sono perfettamente d'accordo con lui, anzi per me è stata una cosa molto importante averlo conosciuto e mantenere anche la sua amicizia. L'uomo va curato a 360 gradi, curare la sua situazione psicologica, il suo morale deve essere alto, deve credere in quello che fa, in quello che si propone di attuare per guarire da determinate malattie. Deve crederci e per crederci deve avere delle evidenze e deve sapere che ha delle potenzialità enormi, enormi da poter sviluppare. E se non sviluppa queste potenzialità di cui tutti quanti siamo possessori, difficilmente il farmaco in se stesso può essere sufficiente per guarirci da certe malattie. Se invece noi riusciamo, qui si nasce il discorso del placebo, che però è una cosa un po' diversa, ma che in qualche misura si avvicina al punto, dal punto di vista almeno del trattamento psicologico. Si parla quindi di medicina olistica, cioè la possibilità di aggredire un po' tutta la situazione della persona, di vivere e capire e amare la situazione della persona, aggredire nel senso che viene aggredita la malattia della persona, no? Che poi anche quella, più che aggredire, che è un termine che viene utilizzato anche dal punto di vista così ospedaliero, eccetera, io preferirei parlare amare anche questo tipo di malattia, che è sempre una forma di estrinsecazione, di manifestazione della nostra umanità. Le situazioni sono queste. Ora, la sala virtuale telefonica in questo senso può anche diventare un motivo di comprensione di determinate realtà che difficilmente potrebbero essere raccolte tranquillamente, no? Abbiamo parlato di tante cose, facevamo a volte due conferenze, addirittura due incontri tematici, le chiamiamo noi, ogni mese, e questo diventa molto ma molto importante. Ho in animo anche di portare altre persone che ho già identificato, ultimamente per la rivista Senior, la rivista sonora che viene distribuita a livello nazionale su dischi registrati in MP3, ho avuto la possibilità di avere una lunga, bellissima conversazione con Dacia Maraini, e la quale mi parlava della necessità di mettere in vivere con particolare evidenza gli occhi della mente. Non ci sono soltanto gli occhi che abbiamo noi sul viso, dice Dacia Maraini. Esistono gli occhi della mente, gli occhi del cuore. Dico soltanto che bisogna vedere anche con il cuore. Ecco, sì, questa è una bellissima cosa. E allora noi ti ringraziamo di aver accettato l'invito. Vi ringrazio, ma io auguro a tutti davvero una serata serena e soprattutto una notte ricca di sogni che siano appaganti, no? Bisogna che ci lascino poi al risveglio ricchi di nuova speranza. Ringraziamo e ti ringrazio io personalmente di aver accettato questo invito. Ti saluto, Cesare, e ti faccio tanti auguri di buone feste e di tutto. Grazie. Ciao. A te, a tutti i tecnici e a tutti coloro che amano seguirci. Ciao. Ciao. E io vi saluto e vi do appuntamento, a Dio piacendo, come sempre, alla prossima settimana. E vi dico come sempre, ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.